America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. The FBI will be in the lead, working closely with local law enforcement. We've also been in contact with the Department of Defense to make sure that all our defense facilities are properly attentive and vigilant. Barack Obama che parla della sparatoria di ieri a Chattanooga. Il presidente dice che non conosciamo ancora i dettagli di questo crimine, è in corso un'indagine a tutto campo, ma sembra che l'autore della sparatoria abbia agito da solo. Obama poi ha espresso profonde condoglianze naturalmente alle famiglie delle vittime, ricordiamolo, 4 Marines morti, una gran quantità di feriti, alcuni anche molto gravi, ha chiesto al paese di pregare per loro, ha sottolineato che al Pentagono si sta facendo di tutto perché le basi militari siano in allerta, vigili nel momento in cui per la seconda, terza volta ci si accorge che sono invece vulnerabili a degli attacchi armati. Stiamo cercando di capire esattamente che cosa è accaduto, ha detto Barack Obama. Ecco, il fatto che abbia fatto un riferimento al criminale che poi è stato ucciso, criminale Mohammed Youssef Abdulaziz, un cittadino naturalizzato americano ma di origine del Kuwait, era armato fino ai denti, ha cominciato a sparare da una Mustang decappottabile metallizzata, prima al centro di reclutamento di Chattanooga, poi direttamente al centro di riserva navale della Marina Militare Americana. Nessuna vittima al centro di reclutamento, a una decina di minuti d'auto dalla base. Poi, senza entrare dentro il recinto, Abdulaziz ha ripreso a sparare dalla sua macchina vicino alla base, appunto a 10 minuti dal centro di reclutamento, colpendo i militari che facevano acquisti, si preparavano a un tranquillo e caldissimo, perché immaginiamo il caldo nel sud dell'America in questa stagione, a un tranquillo, vi dicevo, fine settimana di questa piccola cittadina nel grande sud americano. Ecco, un po' di riflessioni. Cosa vuol dire Obama quando dice che lo sparatore Abdulaziz ha agito da solo? Abbiamo avuto, come dire, ma forse un'indicazione da Bill Killian, che è il procuratore del Tennessee. Sentiamolo. I'm Bill Killian, United States Attorney for the Eastern District of Tennessee. We are conducting this as an act of domestic terrorism. The FBI is now in charge of this investigation. Ecco, qui Bill Killian dice che fino a prova contraria l'attacco di Chattanooga sarà considerato un atto terroristico. Ecco, questa cosa aveva colto di sorpresa all'inizio, perché era intervenuto l'FBI, era intervenuto il sindaco della città, Andy Burkle, fonti del Pentagono dicevano che poteva anche trattarsi di un atto criminale comune, che l'inchiesta restava aperta. L'FBI e l'agente speciale Edward Reynolds, responsabile dell'inchiesta locale, ha detto: non abbiamo ancora determinato se si tratta di un atto criminale o di un atto terroristico nazionale o internazionale. Ecco, questi riferimenti terroristici erano tutti un po' misteriosi, fino a quando non si è capito che era l'origine dell'attentatore, cioè il fatto che fosse di origine islamica del Kuwait, che ha generato i sospetti di un possibile attacco terroristico. Perché vi sto dicendo questo? Perché ci sono molti paralleli con un altro attentato gravissimo che ha fatto 13 morti nel 2009, quello di Fort Hood in Texas, il 5 novembre del 2009. Sentiamo. Senator Hutchison just confirming now what we had been told internally here is, and that is that this suspect is an officer in the United States military in the army who's been shot and killed after shooting, according to the military, all of these people. Ecco, avete sentito le cronache di allora del 5 novembre del 2009, mamma mia, sembra ieri, eppure sono già passati 6 anni. Cosa capitò a Fort Hood, una delle più grandi basi militari americane in Texas? Nidal Malik Hassan, un cittadino americano di origine palestinese, aprì il fuoco alla base e uccise 13 persone fra militari e personale civile, ne ferì una trentina. Si scoprì rapidamente che Hassan, ed è questo il punto chiave, era stato in contatto con Anwar al-Awlaki. Avevano avuto uno scambio di email fra il 2008 e pochi giorni prima dell'attacco nel 2009, addirittura 18 email nelle quali Hassan chiedeva istruzioni, consiglio, suggerimenti su come affermare il volere di Allah. C'erano molte invocazioni religiose, c'erano delle richieste di interpretazioni del Corano. Al-Awlaki era un imam, ma era un imam americano. Era nato in New Mexico, si era laureato all'Università del Colorado, aveva addirittura ottenuto, pensate, un dottorato di ricerca alla George Washington University, e poi decise di unirsi alla battaglia di Al-Qaeda e scappò, se ne andò dagli Stati Uniti e si stabilì poi nello Yemen, costituì questa cellula pericolosissima yemenita perché divenne un punto di riferimento per il reclutamento all'estero, soprattutto in America. Aulaki fu poi ucciso il 30 settembre del 2011 da un attacco di droni con un missile Hellfire. Hassan fu catturato, fu portato in ospedale perché era rimasto ferito, processato da un tribunale militare che lo ha condannato a morte ed è in attesa dell'esecuzione a Fort Leavenworth in Kansas. Here is what we know at the moment. Back in our top story, ISIS claims responsibility for an attack in Texas as we learn more about one of the gunmen's ties to terror. Un altro attacco sempre in Texas, questa volta a Garland, e dunque c'è una coincidenza perché ci sono forti comunità di immigrati arabi islamici nel sud degli Stati Uniti e l'attacco di Chattanooga segue quello del 5 maggio scorso a Garland in Texas, quando due terroristi islamici legati all'ISIS cercarono di compiere una strage. Cosa succedeva a Garland? Era stato indetto un concorso per onorare le vittime di Charlie Hebdo a Parigi e questo concorso premiava chi faceva la migliore caricatura di Allah. Ecco, un concorso che naturalmente fu considerato un po' una provocazione. Per fortuna un poliziotto locale capì cosa stava capitando, aprì subito il fuoco e uccise i due terroristi prima che potessero fare morti e feriti. Purtroppo lo stesso non è successo a Chattanooga. Soltanto molto più tardi, soltanto quando i morti c'erano già stati, le forze dell'ordine sono intervenute e hanno poi ucciso nella sua automobile, nella sua Mustang metallizzata, decappottabile, Abdulaziz. Di certo l'America è scossa, preoccupata, e se si confermerà che c'è una matrice terroristica o comunque di coordinamento, lo saremo tutti, perché ci rendiamo conto che non ci sono limiti a quello che questi terroristi riescono a fare, e dunque anche l'America sarà ancora più preoccupata se si confermerà la tesi dell'attacco terroristico di matrice islamica. Ecco, devo dire, nessuno immaginava che in una base tranquilla, in questa tranquillissima cittadina storica, anche un po' sonnolenta, diciamolo, del Tennessee, 170.000 abitanti, una cittadina che ha visto tempi migliori molti decenni fa, quando invece di viaggiare in aereo si usava ancora come principale mezzo di trasporto la ferrovia e il treno passava per Chattanooga come centro di smistamento per il sud. Per andare per esempio ad Atlanta in Georgia bisognava passare da Chattanooga venendo dal nord, dunque la cittadina aveva una certa popolarità, radici poi antiche, perché era una delle tappe più conosciute nei viaggi dei pionieri verso il Far West, ebbe un momento di notorietà negli anni 30, nell'epoca dello swing, poi il declino e fino purtroppo il ritorno alla ribalta per questo attacco che conferma, qualunque sia stata la motivazione, quanto l'America stia passando un momento di incertezza, paura, instabilità da un punto di vista della sicurezza interna. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.